Steve a mis au point différents réservoirs. Ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siebler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Rieccoci, buongiorno e buona Pasqua a tutti voi. Oggi parleremo di mense dei poveri e mense dei ricchi, di cibo compassionevole e di cibo creativo. È di nuovo Pasqua e mentre ci sediamo a tavola per gustare il capretto, o come suggerisce Jonathan Safran Foer, un bel polpettone vegetariano, care ascoltatrici e cari ascoltatori, credenti e non credenti, pensiamo almeno per un momento a quelli che per sfamarsi possono solo contare sulla compassione e sulla generosità degli altri. A New York i volontari delle associazioni umanitarie cercano di dare una casa all'ultimo homeless di Times Square, che a quanto pare preferisce restare a dormire in strada. Intanto a Parigi un gruppo di giornalisti gourmet cerca di traslocare la cucina francese dalle vecchie brasserie a un ambiente più moderno e internazionale. I problemi degli homeless e le nuove tendenze della cucina francese sono due dei temi che tratteremo in questa puntata della Finestra sul Cortile. Ma intanto ascoltiamo che cosa prevede il sommario di oggi. Francia, rivoluzione in cucina. Il movimento Le Fooding si ribella alla haute cuisine tradizionale. America. Il cibo spazzatura crea dipendenza, come la cocaina o l'eroina. Abu Dhabi. Visti dagli altri. Puccini conquista la capitale degli Emirati Arabi. America. L'ultimo dei barboni. La storia di Evie, l'homeless di Times Square. Inghilterra. Nell'era dell'iPod cresce la nostalgia per le musicassette. E prima di passare al dessert, vi proponiamo la nostra tradizionale selezione di formaggi. Per iniziare, un eccellente clochette cremoso, molto piacevole e delicato. Poi un brebis dalla spiccata personalità. Ne comprerete. Non credevo di dover affrontare l'argomento, ma si dà il caso che viviamo a Parigi. Ed è così facile trovare delle prelibatezze a Parigi! Abbiamo ascoltato un brano di Ratatouille, film d'animazione della Disney Pixar, il cui protagonista, come tutti sapete, è un topo chef. E appunto di chef di nuove tendenze della cucina francese parleremo in questa prima parte della Finestra sul Cortile, a partire da un articolo di Adam Gopnik sul New Yorker intitolato No Rules, che è niente regole, che è dedicato ad un nuovo movimento culinario francese che si chiama Le Fooding, un nome meticcio mezzo francese e mezzo inglese che già in qualche modo anticipa il programma di questo movimento, di questa associazione che è stata fondata da due giornalisti francesi, Alexandre Camat e Emmanuel Rubin. Adam Gopnik paragona questo movimento alla nouvelle vague nel cinema, diciamo alla tendenza del cinema di Truffaut e di Godard. Sostanzialmente il proposito di questo movimento Le Fooding è quello di sprovincializzare la cucina francese, di schiodarla dalla sua cultura nazionalista e portarla invece in un ambito più libertario. Adam Gopnik dice: ma se uno cerca di capire lo spirito di questa nuova associazione, dovrebbe pensare un po' al giansenismo a Port-Royal del 600. È sostanzialmente un'eresia. E in che senso un'eresia? Nel senso che vuol dire addio al foie gras, al pollo allo champagne, a tutti i piatti della cucina tradizionale francese e cercare invece delle nuove frontiere più aperte ai contributi anche di culture altre. E tra l'altro lo scrittore americano racconta di come è venuto in contatto con i fondatori di Le Fooding, che sono venuti a trovarlo a New York. E uno di questi era appunto Raphael Glucksmann, il figlio del filosofo, del nouvel philosophe André Glucksmann, e sostanzialmente questi attivisti del movimento gli hanno raccontato un po' quello che volevano fare. Hanno organizzato anche un evento a New York per presentare il loro movimento, che hanno chiamato Le Fooding d'Amour, e che dovrebbe creare una specie di movimento come quello di Lafayette e Washington a New York. E tra le più recenti acquisizioni del Fooding Guide, che hanno appunto creato una guida alternativa alla guida Michelin che hanno creato questi fondatori di Le Fooding, ci sono due chef francesi, Adeline Grattard del ristorante Yam Cha sulla Rue Sauval, che cerca di fare una cucina fusion tra Cina e Francia, e Gregory Marchand, che è uno chef francese che però ha imparato il mestiere a New York e a Londra. Quindi cosmopolitismo, apertura internazionale. Ecco, ma intanto diamo il benvenuto al nostro ospite, che salutiamo, Philippe Daverio. Buongiorno, buona Pasqua. Buona Pasqua a voi. Philippe Daverio, lo conoscete tutti, oltre che un critico d'arte, un conduttore televisivo. Qui parliamo di arte culinaria, ma visto che tu sei di origine francese, sì, esatto, del tu perché... Esatto, l'accordo profondo del mio animo. Ecco, e penso che tu sia anche un gourmet, da quel poco che ti conosco, e quindi penso che tu abbia qualche attenzione e interesse al tema di questo articolo di Gopnik. Non so se conoscevi questo movimento. Onestamente no, però potevo aspettarmi che succedesse qualcosa di folle in Francia, perché avendo loro tirato la coperta dal lato opposto della tradizione con la nouvelle cuisine, no? Certo. E avendo loro questa eredità che non riescono a smaltire, che è quella della pomposità ottocentesca legata alla sovralimentazione come un atto di fede, quella che trova il suo punto massimo in quel famosissimo libro di cucina che fece Alexandre Dumas, ma che, certo, prevede un essere umano che ha fatto 4 ore fuori all'aria aperta a cavallo o 12 ore a caccia. Pantagruel, insomma. Esatto, cioè quel modo lì di mangiare oggi è particolarmente impossibile, e poi ha delle implicazioni anche comportamentali, cioè qualsiasi incontro di lavoro in Francia, ancora nella retorica storica, si conclude nel déjeuner d'affaires e si sta seduti a tavola per 2 ore e mezzo finché non si rimbambisce definitivamente. Magari alla Tour d'Argent o alla Coupole. All'ultimo momento, dopo il cognacchino, si finge ancora di poter ragionare mentre si è totalmente andati. Allora, la Francia, un tema se devo porre, cioè uscire da quell'immagine, attenzione, gloriosa dell'Ottocento, certo, e ritrovare una sua radice che è sempre stata mescolata, perché se non ci fosse stata Caterina dei Medici, i francesi continuavano a non usare la forchetta, se non ci fosse stata la Maria dei Medici non sarebbe mai arrivato il gelato. Cioè, la Francia non è, come pensiamo noi, un paese intimamente francomane, è un paese che ha sempre giocato molto sul cosmopolitismo. Quindi siamo noi, insomma, che gli abbiamo insegnato come stare a tavola. Ecco, sì, un po' noi gli abbiamo dato lo stile, no? Poi dopo, certo, loro ci hanno messo le salse, che hanno inventato un modo molto barocco di concepire la cucina. Ma questo modo molto barocco, in fondo, quanto non aveva di origine che veniva già dalla corte Barberini a Roma. Cioè, in fondo la Francia viene da lì. Certo. Quanto non si è affinata con le manie mangiariniane, e poi invece ha formato il suo gusto, che è il suo gusto ostricoide del Settecento e il suo gusto borghese dell'Ottocento, diventando però un paese che deve affrontare l'ipotesi dello sviluppo. Guarda, c'è una cosa molto divertente: nella prima metà del Seicento avviene una grandissima battaglia politica fra due tendenze opposte del ministero di Enrico IV. Poi, sì, c'era Sully. Sully è quello famoso della poule au pot, che dice: il futuro della Francia è garantire ad ogni famiglia una gallina lessa la domenica, no? Cioè, quindi la Francia fa una scelta sotto Enrico IV, che poi è ricordato per questo motivo come il re buono, e che è una scelta di tipo alimentare agricolo. Poi invece il nemico di Sully, quello che viene sostanzialmente esautorato dalla politica, diventa il padre formativo e intellettuale di Colbert, che diventerà il ministro di Luigi XIV. Colbert segue la strada opposta, dice no, la Francia deve essere soprattutto un luogo di commerci di lusso e un luogo di produzione industriale. Con lui nascono i Gobelins, nasce tutta un'altra visione del prodotto. Cioè ecco, il famoso colbertismo, e che è anche quindi un risvolto gastronomico. Bene, noi ringraziamo Daverio, buona domenica, buona Pasqua e a presto. Voi. Anche il cibo spazzatura può diventare una droga. Al già lungo elenco di dipendenze, la droga, l'alcol, il gioco, internet, due ricercatori americani dell'Istituto Scripps della Florida, Paul Johnson e Paul Kenny, ora aggiungono anche il cosiddetto junk food, il cibo spazzatura, le merendine ricche di grassi e di zuccheri, di cui sono così ghiotti gli americani, da cui la piaga dell'obesità di massa. Pare, secondo la ricerca pubblicata sul settimanale scientifico Nature, che ci sia una diminuzione dei recettori della dopamina che genera un bisogno crescente di consumare questo tipo di cibi. Cioè non bastano mai, uno ne vuole sempre di più, proprio come nelle tossicodipendenze. Visti dagli altri. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia. La nostra rubrica settimanale sugli italiani che si fanno onore all'estero ci porta questa domenica in Abu Dhabi, dove la sera del 25 marzo si è esibito l'orchestra, il coro del Festival Puccini di Torre del Lago, diretti dal maestro Alberto Veronesi, in una rappresentazione della Bohème nell'allestimento firmato da Scaparro e Folon, riscuotendo un enorme successo. Era la prima volta che un'opera veniva rappresentata nel Teatro degli Emirati. L'anno scorso c'era andata l'Orchestra della Fenice di Venezia, ma si era limitata ad alcune arie d'opera, quindi è stato un vero debutto. Certo, deve essere stato stridente il contrasto tra la povera soffitta di Parigi, dove è ambientata la Bohème, e la fastosità del Emirates Palace Theatre. Ma chissà come si saranno commosse le 10 o 15 mogli dello sceicco per il dramma di Mimì, anche se col caldo che fa da quelle parti nessuna di loro aveva la gelida manina. Lo chiamano heavy, pesante, forse per via della sua stazza. Lo riconoscono tutti perché porta un berretto di maglia rossa in testa, sta seduto su una seggiola di fortuna accanto a una valigia rossa e nera, e di notte dorme dentro una scatola di cartone sotto l'impalcatura di un palazzo in costruzione vicino a Times Square, la piazza famosa di New York dove gli americani festeggiano il Capodanno. Heavy è l'ultimo degli homeless di Times Square e lo racconta la sua storia, Jali Bosman, in un articolo sul New York Times. Perché l'ultimo? Perché in passato ce n'erano molti di più. Times Square è stata per molto tempo un centro dello spaccio di droga, della prostituzione, della criminalità e anche dei senza fissa dimora che dormivano per strada. A un certo punto poi c'è stata la politica della tolleranza zero e tutti questi barboni, questi clochard, sono stati trasferiti nei rifugi dentro i capannoni e poi in seguito le associazioni di volontariato hanno cercato di dargli un appartamento, di dargli una casa vera e propria. Ma Heavy resiste a tutte le lusinghe e preferisce rimanere in strada. Nessuno sa esattamente quale sia la sua identità e quali siano le ragioni che lo spingono a perseguire questa vita, ma nel vicinato, nel quartiere intorno a Times Square, non viene soltanto tollerato, è veramente amato. Cioè tutti, addirittura qui si parla di una signora di 82 anni che dice che tutte le mattine quando lo incontra lui le dice hi mommy e lei risponde hi honey, ciao tesoro, e tutti gli danno da mangiare nei bar, gli danno degli abiti caldi per l'inverno. Insomma, evidentemente Heavy si trova meglio in strada che in una vera e propria casa. Ma sul problema degli homeless, non soltanto in America ma anche nel nostro paese, vorremmo parlare con un ospite che abbiamo al telefono, padre Alex Zanotelli. Buongiorno, buona Pasqua. Buongiorno e buona Pasqua a tutti voi. Padre Zanotelli, missionario comboniano, dopo anni passati in Sudan e in Kenya, da un po' di tempo opera nel rione Sanità di Napoli e si occupa per l'appunto di senza tetto e di tossicodipendenti, no? Mi pare lei in qualche maniera aiuta questa gente a rialzarsi, a crescere insieme. Non solo questo, faccio anche tante altre cose. Sì, lo immagino. Sì. Ma fra l'altro in questi giorni proprio il problema dell'acqua che ci tocca direttamente. Ma è vero, io ho seguito e seguo molto da vicino un po' tutto il dramma dei senza fissa dimora. Un dramma che è grosso. A Napoli è una città dove i senza fissa dimora sono in aumento. Per effetto della crisi sono... Certamente, non sono soltanto fra l'altro semplicemente immigrati o gente dell'est, molti napoletani fra l'altro adesso sono in aumento, anche la popolazione locale che arriva per strada, sia per la crisi economica sia per tantissime ragioni. Quest'inverno, che è stato un inverno fra l'altro eccezionale, abbastanza freddo anche qui a Napoli, noi abbiamo perso 14, chiamiamoli clochard, senza fissa dimora, è certo, un numero estremamente alto, morti per il freddo. Uno fra l'altro abbiamo avuto un problema proprio, Yusuf, un magrebino del Marocco, che è stato quasi certamente, deve essere stato pestato e poi buttato nella fontana in piazza Cavour, e è stato poi è uscito, ma deve essere morto dal freddo proprio per una notte fredda. Abbiamo tutta una serie anche di episodi di questo tipo, di intolleranza, di aggressione. Esatto. Questo chiaramente è dovuto a un'Italia, riconosciamolo, dove la xenofobia e il razzismo stanno aumentando, e chiaramente i primi a essere coinvolti sono immigrati, rom e senza fissa dimora. Ecco, ma cosa si fa in concreto, per esempio il Comune di Napoli, per dare un tetto a queste persone, oppure è tutto rilasciato al volontariato? Purtroppo, guarda, devo confessare che fa molto poco il Comune di Napoli. Io ho fatto 4 anni, lo dico senza che nessuno mi possa smentire, di lotte in chiave politica prima di tutto, che abbiamo chiesto per 3-4 anni al Comune, con manifestazioni eccetera, che ci desse per esempio una stanza nell'albergo dei poveri. Qui a Napoli c'è il famoso, il più grande edificio d'Europa, chiamato Albergo dei Poveri, che è stato costruito dai Borboni. Borboni. Sì, come? Dai Borboni, è una cosa storica. E dico, se i Borboni, che sappiamo chi erano, hanno trovato un luogo per dare una mano alla gente, ai poveri, diciamo, della città, è possibile, dico, che i nuovi Borboni non riescano a trovare un luogo, nulla da fare, non c'è stato verso, hanno detto che assolutamente lì. Ci hanno promesso 4 altri spazi, nulla da fare. Adesso, per fortuna, hanno incominciato qui proprio la sanità, la tenda che prima era per tossicodipendenti, ad accogliere i senza fissa dimora. È molto bello la sera vedere tanti di questi, sono 130 adesso che arrivano accidenti, senza fissa dimora, che vengono a prendere un pasto caldo e possono almeno dormire, dormono lungo i corridoi, ma almeno non hanno coperto in qualche cosa. Altrettanto alla Palma qui stanno dando da dormire a un 50-60 di loro, per cui è questo proprio qui alla sanità. Per cui è la cosa bella forse che io vorrei raccontare, è incredibile che noi abbiamo delle piccole comunità qui al Rione Sanità e che si danno da fare, adesso loro stessi vanno a trovare senza fissa dimora, per esempio il mercoledì sera, lungo via Toledo, via Marina, e portano loro un po' di caffè, un po' di tè, un qualcosa bello. Dei volontari, insomma. Giovani volontari. Sì, sì, e sono soprattutto la povera gente, per la, cosa vuoi, qui a Rione Sanità è fatto del sottoproletariato napoletano. Certo, non sono certo quartieri alti. Sono proprio i quartieri poveri che stanno dando una mano adesso davvero a questi senza fissa dimora. Questo, quindi invece che una guerra tra i poveri abbiamo una pace tra i poveri. Un bellissimo esempio davvero, tanto di congratulazioni a queste piccole comunità, a questa gente comunissima che vive sobriamente e quindi che condivide anche quello che ha e cerca di dare una mano. Con chi passerà la Pasqua, padre Zanotelli? Io sarò qui, certamente. Può darsi, fra l'altro, che possiamo anche celebrare con questi senza fissa dimora. Ne parlavo con Don Vitiello, che è il responsabile della tenda, dove sono accolti un 130 di loro, ma sono di religioni molto diverse, vai certo, dai musulmani, a indù, a cristiani, a ortodossi, quindi... È difficile, vediamo, riunirli in un unico rito, ecco. Forse un momento di preghiera, facendo pregare loro, chi il Corano, chi... Potrebbe essere che lo facciamo, vediamo. Bene, grazie padre Zanotelli, buona giornata, buona Pasqua e a presto. Grazie, buona Pasqua. E auguri, grazie, per il suo lavoro, buona. Grazie. Grazie, grazie. Ricordate le vecchie musicassette, quelle con cui ascoltavamo la musica negli anni 80 sui Walkman della Sony e che poi sono state soppiantate dai CD? Beh, Dorian Lynskey ci annuncia dalle colonne del Guardian che in piena era dell'iPod stanno in qualche maniera ritornando in auge, e non soltanto tra i 50 o 60 anni, ma anche tra i giovani che hanno incominciato ad ascoltare musica per l'appunto negli anni 80. E c'è addirittura un produttore canadese che ha fondato una sua società, Scotch Tapes, nel 2008 per diffondere musica su nastro. Naturalmente l'ironia vuole che tutto questo si compri soprattutto online, proprio come la paccottiglia e le cianfrusaglie usate che si comprano su eBay. E per oggi è tutto. Ringrazio Vittoria Mussini in redazione, Carmelo Lauricella in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi augura buona Pasqua e vi dà appuntamento a domenica prossima, stessa ora.